already know the answer. You are a disgrace. Now, to have psychologists and psychiatrists to Iraq, explain the importance of what your tasking was. Jefferson, l'America prima del voto. Di Stefano Pistolini. Allora, benvenuti a Jefferson, la rassegna settimanale di alcuni degli spazi e degli interventi più interessanti della sezione americana di Jefferson Ming, il nostro magazine a due facce che si occupa di America e di Cina e soprattutto del sorpasso sempre in corso tra le due superpotenze. Poi naturalmente appuntamento a lunedì alle 16 per la diretta di Jefferson Ming, sempre qui su Radio 24. Noi mettiamo questa musica qua perché siamo abitudinari, ma qua ben altro ci vorrebbe, ci ho pensato adesso, insomma, qua roba di tutt'altro tipo. Comunque, vabbè, facciamo però crea atmosfera questa musica. Buttiamola sul giornalistico, perché, cari ascoltatori, stiamo per indagare insieme, soprattutto con il contributo del nostro eroico Emiliano Enrico, una vera e propria leggenda della cultura popolare. Non vi tengo troppo così sul filo per sapere di quale leggenda stiamo parlando. Stiamo parlando di una leggenda che ha un nome, che è Pamela, e un cognome, che è Anderson. E detto questo mi potrei anche fermare, perché voi potreste dire: vabbè, ma siete la radio, voi che volete con Pamela Anderson alla radio? E invece noi ve la racconteremo in modo particolare, per il semplice fatto che ve la racconteremo in prima persona. Infatti Pamela è in giro per la capitale a presentare un suo programma televisivo che sta per debuttare anche in Italia e che poi nel filone che fa sì che tutto può diventare narrativo, no? Che è quello che ha sospinto all'attenzione del pubblico mondiale, reality show, no? Quindi non so, la vita della famiglia di un mafioso, i Gotti per esempio, può diventare un reality show, e figuriamoci se la vita di Pamela Anderson, dei suoi mariti metallari e delle sue mille avventure nel mondo dello show business non può diventare un reality show. È proprio così, e Emiliano oggi è andata a trovarla. Adesso, radio o non radio, raccontaci qualcosa. Eh sì, lei è venuta qui a presentare questo Pam Spirito Libero, un reality che lei subito ha detto non è un reality, un documentario, è tutto vero, niente è stato sceneggiato, che andrà in onda dal prossimo sabato su E! Entertainment, quindi sulla TV a pagamento. Ma naturalmente c'era il gusto di vederla da vicino. Io ho avuto la fortuna, credo posso dire, insomma, il privilegio di stare 5 minuti da solo con Pamela Anderson e chiacchierare un po'. Da solo, non ti allargare. Beh, c'era l'interprete e qualche altro che guardava, vabbè, e le guardie a spalle che sono pericolosissime, di Pamela Anderson, che mi contavano le domande. Vabbè. Me ne hanno date 3-4 a disposizione, non di più. Siamo riusciti, insomma, a estrapolare una chiacchierata anche interessante su argomenti, peraltro, ponderosi, come le elezioni americane, come la crisi dei mutui americani, visto che lei tra l'altro ci ha tenuto oltre ad ammirare naturalmente la sua bellezza, perché devo dire che vista dal vivo forse sarà anche stata aiutata dalla chirurgia, però insomma la presenza scenica è straordinaria. Leverei quel forse. Dunque, mi sembra che siano state 4 o 5 gli outing progressivi attraverso i quali Pamela comunicava al mondo che aveva un po', come dire, aumentato la misura del seno. Del seno. Però, insomma, lei quando è il momento lo ufficializza, e questo lo trovo molto sportivo, molto pop. Poi, beh, no? Oggi ha ribadito che, insomma, che il corpo fa parte naturalmente del suo fascino e ha cavalcato l'onda, ha detto proprio queste parole a testimoniare, insomma, che non si nasconde dietro la sua bellezza, o non vuole passare per quella per forza intelligente, insomma sa benissimo che il suo corpo attrae e attira, e quindi l'ha sfruttato per diventare quello che è diventato, cioè questa straordinaria celebrità globale. Sì, icona dell'America, dell'America televisiva, dell'America trash. Poi scopriamo che non è americana, tanto per cominciare. No, lei è canadese, anche se ormai vive da tanto tempo in America, risiede a Malibu, in una splendida villa che verrà poi ripresa in tutte le salse in questo documentario Pam Spirito Libero. E tra l'altro questa volta, per la prima volta, potrà anche votare il 4 novembre, perché ha ottenuto la doppia cittadinanza, quindi e sarà si chiamata dice anche lei. Democratica, no? Democratica, grande sostenitrice di Obama. Quando gli ho fatto il nome della Palin ha fatto dei versi che sentiremo. E dopo sentiremo. Oh, tra l'altro abbiamo scoperto, tanto per completare la vostra preparazione, io vi giro quello che ho imparato, la mia cultura da scatola di cerini, su Pamela Anderson, che non è neanche bionda, in realtà lo è diventato. Tu questo lo avevi capito, caro Emiliano? Ma non ci ho pensato molto oggi guardandola. Chissà cosa pensavi. Bene, sentiamo l'intervista di Emiliano a Pamela Anderson. Mi piace molto questo abbinamento. La prima domanda che gli abbiamo fatto è, insomma, che cosa c'è sotto questo reality, che cosa si vedrà di più, di inatteso, assistendo a Pam Spirito Libero. I don't know, probably a lot more than they know now. I think, I don't know what the perception is, but credo che scopriranno più di quello che sanno ora. Non che la cosa mi sorprenda o mi dispiaccia, però ho la sensazione che la percezione che la gente ha di me non sia quella giusta. Io sono anche una madre, ho una carriera fatta di tante cose. Quello che vi posso garantire è che non si tratta di una montatura. Questo genere di prodotti di solito prevede una sceneggiatura, ma non è il mio caso. Faccio vedere tutto quello che mi capita, come ad esempio il fatto che mi batto per la causa animalista in giro per il mondo. Niente di quello che vedrete è stato fatto apposta per la TV. Nothing is done specifically because I have a television show. Una domanda che mi è venuta ascoltando prima la sua conferenza stampa, quando ha detto che è un'imprenditrice delle case, lei costruisce case in tutto il mondo. Che cosa ne pensano di questa crisi che sta colpendo l'America, dei mutui, insomma? Well, I think it's very sad. I think, you know, we live in a world of excess. I think that's the problem. We all live above our means. Penso sia una cosa molto triste. È il frutto di una serie di eccessi a cui ci siamo abituati. Ma questa, d'altronde, è l'America. È un segnale di allarme nei confronti di questo stile di vita esagerato. Ed è anche una sfida. Io stessa ho delle case in costruzione negli Stati Uniti e in Canada. Amo l'architettura. È il mio hobby. Anche se molto costoso. So it's my hobby, but it's also very expensive. Vedo i vostri messaggi che già state facendo i sofistici. Ma come, per un attimo non vi parliamo di Sara Palin, mettiamo al suo posto Pamela, anche se poi in realtà sono quasi coetanee, vabbè, ma questo è un altro. Ufficialmente 41 anni per Pamela Anderson. Oh, sì, ufficialmente 41 anni, ufficialmente uno, due, soli tre mariti. E uno un paio di volte, ma questo vale sempre, facciamo uno, però fra i tre mariti, due dei peggiori ceffi, se mi passate l'espressione, della musica americana, ovvero Tommy Lee e Kid Rock. Chissà chi è questo terzo, Rick Salomon, che è stato sposato per belli tre mesi e mezzo circa, e poi misteriosamente annullato. Questo è il white trash, insomma, lo chiamano così gli americani, ciò che la società dello spettacolo ci lascia un po', no, la striscia che lascia per terra, da Baywatch in poi, insomma, fatta di comportamenti un po' stravaganti. Tu ne hai visto più di uno oggi, mi sa, vero? Beh, devo dire che sicuramente si atteggia diva, e questo l'aveva detto, è entrata da un sipario, accolta da un applauso, ammiccava i giornalisti, soprattutto quelli con la bava alla bocca, e poi ha fatto una cosa davvero strepitosa. Lei prima si è concessa ai giornalisti della carta stampata. Si è concessa, non usare queste si espressioni. Si è concessa, va bene, nel senso, ha risposto alle domande più o meno interessanti dei giornalisti della carta stampata, vestita in un certo modo, con un bel tubino, chiaramente seno in vista, insomma, nel senso abbastanza scollata. Poi improvvisamente sono arrivati i suoi, insomma, gli organizzatori dell'appuntamento, adesso Pamela si concederà alle televisioni e in parte anche alle radio. È sparita per 10 minuti e è tornata cambiata d'abito. Bellissimo. Con per esempio le gambe molto più in vista, quindi pronta alle inquadrature delle televisioni italiane. Che volete, questo è il mestiere dello show business, visto da questa particolare angolazione. Sentiamo ancora Pamela, che cosa l'ha spinta a porla, appunto, a scegliere, a preferire sempre la TV al cinema, ne ha fatto sempre poco, e che cosa l'ha messa su questo canale che si chiama Entertainment. I think that this is a really interesting medium right now, is this reality television. It's very popular. Credo che questo genere di televisione sia interessante, prima di tutto perché è amata dai giovani e rappresenta uno specchio della cultura popolare. E quindi ho accettato con entusiasmo questa sfida con un canale come Entertainment, che si è sempre dedicato alle celebrity, il che rappresenta un approccio da cui mi sono sempre tenuta lontana. Ho preso questo lavoro molto seriamente, perché mi sono esposta con il mio privato. Ho avuto anche discussioni durissime. Credetemi, l'ho presa con entusiasmo ed è tutto vero. Per la prima volta il 4 novembre voterà in America, una grande sfida tra McCain e Obama. Chi vincerà? Obama, please God above, pray for Obama. I think so, but you know, I really do. I think Obama's going to be the president. La Palin le piace, Sara Palin? Do you like Sarah Palin? How do you spell? Grr. No, I'm not a big fan of hunters. Non pensa che molte donne possano cambiare magari idea e votare per la Palin in quanto donna? Well, I think it's a complete slap in the face to Hillary Clinton. I think that was a political move. Credo che la scelta di Sarah Palin sia uno schiaffo a Hillary Clinton. È il risultato di una strategia politica e dipende dal fatto che la Clinton, a sua volta, non è stata scelta come vice nel ticket da Obama. Ma penso anche che Hillary Clinton avrebbe ottenuto dai democratici più credibilità e più voti di quanti ne avrà la Palin dai suoi sostenitori. Palin then to vote for Obama. Video che analisi di strategia politica che ci monta qui la nostra Pam. Invece quello che non capisco, io chiederei anche agli amici tecnici dall'altra parte, ma questo tono di Emiliano, io non l'ho mai sentito, a me non parla così. Era concentrato. Come parlavi? Era un metro da Pamela Anderson. Questo tono un po' mellifluo. Forse ero influenzato dalla visione. Ma, tra l'altro devo dire, molto simpaticamente, quando gli hanno chiesto perché non è stata lei scelta come vice di Obama per contrastare, diciamo, mediaticamente... La Palin, ha detto, beh, intanto non so chi mi seguirebbe nel ruolo di vice, e poi comunque sono canadese, quindi non sono eleggibile, quindi preparata sul tema. Come first lady, bene. Ultima domanda che vedo gli abbiamo posto, finalmente alziamo considerevolmente il livello di intervista e chiediamogli conto delle sue 14 copertine su Playboy, un record. 13 in America, that's like, well, lots, hundreds, I don't know, all over the world, but 13 in America, so I have to do one more because I don't like that number 13. In America in realtà è arrivata la 13ª. Ne voglio fare almeno un'altra. Il 13 porta sfortuna. Secondo lei gli americani oggi, nel 2008, che rapporto hanno con il sesso? Sereno, inibito? Sì. Ne parlano più che farlo? Che opinione ha della società americana? I'm Canadian, so you know, I've experienced both Canadian and American, and I tell you, I was. Sono canadese, attenzione. Anche se conosco bene gli americani. Secondo me, gli americani sono più conservatori, mentre i canadesi sono più aperti, come voi italiani, credo. In ogni caso, mi sono molto divertita in America. Non posso certo lamentarmi. I've had a lot of fun in America too, so I can't complain. Jefferson, l'America prima del voto. Allora oggi è uno di quei giorni in cui se si aprono uno qualsiasi dei siti informativi americani insieme alle notizie che ci dicono che all'apertura delle borse azionarie sono arrivati altri duri colpi che stanno piegando ulteriormente le gambe dell'economia americana in queste ore, poi ci sono tutte queste foto a corredo, no? Quasi per dare la temperatura emotiva di un momento così difficile. Sono foto in cui l'unica cosa che non si vedono mai sono gli occhi di questi operatori finanziari, hanno sempre le mani sulla faccia, incarnano la disperazione, la perdita di sicurezza. C'è stata un'onda una quindicina d'anni fa in America che raccontò in modo poi divenuto addirittura letterario la crisi e l'avvento di una insicurezza. Non so se siamo da quelle parti, come vi ho già detto, di numeri, di cifre, di andamenti economici e finanziari altri programmi si occupano. Noi più modestamente proviamo un po' a raccontare invece l'aria che tira in America in tante occasioni, e questa è una di queste occasioni. Tra l'altro un articolo sulla prima pagina del Corriere della Sera firma di Massimo Gaggi, intitolato La crisi spinge McCain, fa delle connessioni, produce alcune connessioni appunto tra i fatti, le notizie economiche e le relative ripercussioni nella vicenda elettorale che naturalmente poi riguarda tutti gli americani. Abbiamo chiamato Massimo Gaggi, che è un amico della nostra trasmissione, per capire il giorno dopo che aria tira, che cosa c'è nell'aria, se è vero che il panico non c'è ma la preoccupazione è tanta, insomma che momento sta attraversando New York e, per risonanza con New York, buona parte d'America. Massimo, benvenuto. Buonasera, buon pomeriggio a voi. Il panico non c'è, il panico non se lo possono più permettere, come era un po' la prima riga del mio articolo di oggi. Certo. Un operatore che diceva è troppo tardi anche per farsi prendere dal panico, nel senso che ormai la crisi dura da 13 mesi, il piano inclinato è tale per cui ogni giorno ci si rimboccano le maniche e si cerca di far fronte alla crisi del giorno. Ieri era quella di Lehman, oggi è quella di AIG, il gigante assicurativo che rischia di dichiarare bancarotta domani se oggi non riesce a raccogliere una quantità sterminata di capitale. E con la sensazione che sì, tutto sta da un certo punto di vista andando molto molto male, ma non necessariamente a rotoli. Si sta accelerando la ripulitura del sistema con dei rischi, ovviamente rischi sistemici enormi, ma anche con la sensazione che si vuole evitare una sindrome giapponese, cioè 10 anni di stagnazione. Si cerca di arrivare il più rapidamente possibile al fondo per poter creare le condizioni per la ripresa. Il problema è che se non si trova un equilibrio sui prezzi degli immobili che continuano a calare, è difficile, certo, trovare il piedistallo su quale ricostruire, e quindi tutto quello che avviene nel mercato finanziario, che poi sono le crisi dei titoli derivati, di tutto questo eccesso di credito che c'è stato negli anni scorsi, si potrebbe anche trovare il modo di qualche modo di riassestare, ma deve esserci una base solida sui valori immobiliari che consente appunto di ricostruire. Questo ancora non c'è. Eppure gli editorialisti che vediamo qui anche via satellite nelle televisioni americane insistono parecchio un po' su questo, forse per tranquillizzare anche le persone, su questo tasto, no, in un certo senso della rivincita dell'uomo normale in un'occasione di questo genere. Forse tutto questo naufragio a cui assistete forse non, alla fine non vi riguarderà, forse solo qualche piccola onda, ma potete star tranquilli, l'America ha una sua solidità che è diversa. Viene recepito questo messaggio o c'è scetticismo in circolo? Questo è un messaggio che ha soprattutto una valenza politica ed è usato un po' dal mondo conservatore, anche dal mondo della cultura conservatrice, ed è un po' il senso di quello che scrivevo rispetto a McCain. Può essere sorprendente dire che una crisi finanziaria come quella attuale, una corsa elettorale, favorisce il candidato del partito che ha governato con Bush negli ultimi 8 anni e che ha portato alla situazione attuale, no? Perché a linea di principio i temi economici dovrebbero essere quelli di Obama e Obama dovrebbe essere quello che beneficia della situazione che si è creata. In realtà appunto esiste tutta questa forte retorica degli economisti conservatori che dice all'uomo di Main Street, che in America significa l'uomo della strada, l'uomo della via principale di Corso Italia, diciamo, no? Delle mille cittadine d'America, guarda che sì, è vero, la finanza sta andando male, ma quella è la roba dei banchieri di Wall Street, di New York, della costa orientale, che è una fauna umana molto lontana dal modo di interpretare la realtà degli uomini che vivono all'interno degli Stati Uniti. Per te quello che conta invece è che in questo momento il prezzo della benzina sta calando, il prezzo del cibo sta calando, c'è meno speculazione, quindi meno soldi con i quali si specula sul mercato del petrolio, e quindi il petrolio è tornato intorno ai $90 al barile, i tassi di interesse stanno calando, quindi quando ci sarà credito lo avrai più a buon mercato, e quindi vedrai che la tua vita poi non peggiorerà più di tanto. Certo, ci sono rischi sui posti di lavoro, certo ci sono rischi sulla competitività del sistema americano, però la produttività sta crescendo, quindi l'economia, le esportazioni dell'America crescono, quindi diciamo l'economia manifatturiera, quella al quale la gente comune è più legata perché capisce meno il mondo della finanza, il mondo dell'economia immateriale, questa economia qui ha ancora delle chance, è data per spacciata fino a qualche mese o qualche anno fa, e invece ha ancora delle chance. Questo è il messaggio che McCain sta cercando di imporre, ma personalmente come osservatore non hai la sensazione che per ora entrambi i campi in gioco, il repubblicano e il democratico, per la presidenza abbiano messo in mostra, abbiano ostentato, abbiano presentato un approccio così abbastanza timido, anche un po' segmentato, non sufficientemente strutturato, no, da un punto di vista programmatico, di proposta, di intenzioni nei confronti di questa crisi e più in genere gli andamenti economici? Non mi sembra ci sia molta brillantezza né da parte dell'uno né da parte dell'altro. Guarda, i programmi contano relativamente poco, nel senso che dal punto di vista elettorale, nel senso che Hillary Clinton si è scottata proprio con i programmi, e a un certo punto, certo, quando è stata sconfitta da Obama, gli è stato detto da tutti gli analisti, hai presentato dei programmi molto dettagliati e molto freddi, mentre invece Obama è andato al cuore degli elettori, per cui adesso quei programmi ci stanno tutti quanti un po' attenti, e questo ovviamente sotto elezioni è meno vero, nel senso che poi bisogna, alla vigilia del voto, dire più o meno agli americani che cosa si intende fare. però questo lo si sta facendo in altre aree, nell'area della politica estera e anche nel campo socio-economico. Ci sono programmi abbastanza dettagliati su cosa fare nel campo della scuola, della sanità, i programmi sanitari dei due candidati sono molto dettagliati. Certo. Sul campo della ripresa del sistema produttivo e del cosa fare nel campo della finanza si tengono tutti molto più le mani libere, perché alla fine è molto più difficile intanto far capire, trovare un messaggio che abbia presa sull'elettore medio americano su questi temi, e in secondo luogo loro stessi non sanno. Io credo che a quest'ora del giorno Paulson, il ministro del tesoro, e il presidente della Fed ancora non sappiano cosa faranno oggi pomeriggio su AG, certo. se faranno qualcosa per riaprire i cordoni della borsa o se la lasceranno fallire, per cui per un candidato in questo momento decidere cosa farà a febbraio dell'anno prossimo, quando dopo si sarà insediato il 20 gennaio, è molto molto difficile. Quello che conta è il messaggio, certo, elettorale, quello che stanno facendo i strateghi delle campagne elettorali. Da questo punto di vista a me colpisce la determinazione e la durezza della squadra repubblicana, che peraltro è la stessa squadra che aveva Bush quattro, certo, anni fa e che usò per schiacciare in termini mediatici John Kerry, che porta McCain a dire agli americani: ripulirò Wall Street, certo, facendo capire che le colpe non sono del governo uscente, ma sono di questa casta di ricchi sfondati, finanzieri, troppo disinvolti, molto, certo, di stile molto europeo, certo, che occupano i grattacieli di Wall Street e che hanno messo nei guai mezza America, insomma, ecco, è un po' questo il messaggio che sta cercando di far passare, mi sembra. E questo era Jefferson, un montaggio di ritagli ed estratti dai nostri interventi sulla attualità americana. L'appuntamento naturalmente torna dal lunedì al venerdì alle 16 in diretta qui su Radio 24 con Jefferson Ming e l'arte del sorpasso. Bingo演习。 Yeah.